La prima linea di tendenza dei diffidenti è questo. Gli storici non devono studiare temi fortemente dirimenti come la strategia della tensione e i terrorismi, perché siamo in una fase politica che vede il nostro paese profondamente diviso e quindi gli storici devono cercare di studiare degli argomenti che cementino o ricementino l'unità nazionale. Posizione che non condivido. Credo che non spetti allo storico costruire un'identità nazionale, anche se è chiaro che è con la storia che si costruisce l'identità nazionale. Lo storico professionista autonomo, secondo me, è quello che solleva problemi. Mostra il re nudo, per dirla alla Mark Bloch, e non si deve occupare di cementare l'identità nazionale, cosa che spetterebbe alla classe politica. L'altra linea, diciamo, di obiezione alla strategia della tensione è invece una linea puramente negatrice, una linea puramente negatrice che ha degli epigoni negli opinionisti odierni del Corriere della Sera. Qua cito Pierluigi Battista, ma potrei anche citare Ernesto Galli della Loggia, che tra l'altro è anche uno storico di professione. Pierluigi Battista, procedendo con l'accetta, come spesso gli capita di fare, dice che la strategia della tensione è una formula inerte e conoscitivamente nulla. Noi cercheremo invece di dimostrare, purtroppo non di dimostrargli, che si sbaglia. Altro aspetto da considerare, che rappresenta comunque una corrente di opinione importante, è che attualmente lo schieramento di centrodestra tende addirittura a negare una parte essenziale di quella stagione, dicendo che i vari tentativi di colpi di Stato che furono messi in atto o comunque minacciati sono stati semplicemente una manovra del Partito Comunista per rinsaldare l'unità antifascista, quindi diciamo un gioco politico per ottenere un risultato. E anche su questo ci si sbaglia, perché partendo da questo presupposto poi noi non capiamo i pericoli reali che le istituzioni corsero in quel momento. Voi avete visto nelle precedenti lezioni, nei precedenti incontri, che la strategia della tensione è innanzitutto un fenomeno internazionale, non riguarda soltanto l'Italia, anche se in Italia probabilmente trova una delle sue esecuzioni più compiute. Nonostante non si arrivi a un rivolgimento, a un colpo di Stato, i meccanismi della strategia della tensione che vedremo agiscono perfettamente e continuativamente nel nostro territorio. Qua l'ho definito come un disegno preordinato internazionale dalle classi dirigenti ultraatlantiste, in sostanza da coloro che non ritenevano sufficiente un'idea di contrapposizione all'Unione Sovietica basata sulla pacifica convivenza, sulla distensione, e si sostenevano invece che la distensione sarebbe stato un veicolo favorevole alla diffusione delle idee comuniste. Quindi ci muoviamo poi su uno Stato come l'Italia che ha il Partito Comunista Occidentale più forte. Pertanto, diciamo, dalla linea che gli statunitensi chiamavano del containment, cioè del contenimento, queste classi dirigenti ultraatlantiste ritengono sia necessario il rollback, cioè ricacciare indietro. Le linee strategiche della strategia della tensione sono già chiare all'inizio degli anni 60, ci sono pubblicazioni internazionali che ne parlano. Questi risultati arrivano chiaramente anche in Italia tramite la CIA, tramite gli alti comandi militari, che chiaramente sono inseriti in un disegno internazionale. E allora cerchiamo di vedere come la strategia della tensione dovrebbe eseguirsi. Azioni coperte, letteralmente nei documenti CIA, cioè della CIA, cover action. Azioni coperte contro il nemico interno, quindi siamo già a postulare un tipo di guerra non dichiarata, ma comunque pur sempre una guerra. L'elemento che, diciamo, definisce bene la strategia della tensione per le classi dirigenti ultraatlantiche è rappresentato dall'esempio della guerra di Algeria. Come contrapporsi alla guerra di Algeria? Con gli stessi sistemi dei rivoluzionari, quindi una controguerriglia. Una controguerriglia che comunque metta in uno stato di difficoltà l'assetto predisposto, quindi avere un effetto dirompente utilizzando pochi esecutori. Se questi sono i presupposti teorici militari, l'aspetto, secondo me, finale ma saliente della strategia della tensione è l'uso dell'informazione, che in una società democratica complessa, come lo era l'Italia allora, risulterà determinante. Non esiste strategia della tensione senza impiego dell'informazione. Altrimenti noi avremmo anche potuto chiamare strategia della tensione un sinonimo, avremmo potuto dire terrorismo di Stato. Chiaro che sarebbe una definizione che verrebbe bocciata da un pubblico conservatore, perbenista, da quelli che dicono di queste cose non se ne parla, ma in realtà strategia della tensione enumera più elementi, non è soltanto terrorismo di Stato, enumera più elementi, enumera, abbiamo detto, l'aspetto internazionale, l'aspetto operativo, l'aspetto informativo. È chiaro che per un disegno di questo tipo devono esserci delle condizioni favorevoli per l'azione. Spesso nei testi trovate le indicazioni che governo statunitense di Nixon fornì gli appoggi, l'assenso a azioni coperte. Peraltro, in un caso che ho studiato più nel dettaglio, come il golpe borghese, i congiurati rivelarono di aver avuto l'appoggio dell'amministrazione Nixon. Senza entrare in questo discorso che ci complicherebbe molto le cose, diciamo che appunto il referente internazionale è sempre un elemento presente. Consideriamo però soltanto che solo l'amministrazione repubblicana di Nixon, ma anche i democratici di Lyndon Johnson operarono con questa strategia. Non a caso, quando viene attuato il golpe greco dei colonnelli nel 1967, al potere c'è un presidente democratico, Lyndon Johnson, che vi ricordo era anche il vice di John Fitzgerald Kennedy, personaggio molto diverso da Kennedy, comunque c'era un'amministrazione democratica. Va considerato anche il contorno internazionale. E nel nostro caso l'Europa occidentale ha degli esempi di governi autoritari, quello fresco greco, quello portoghese, quello spagnolo. Dico questo perché la Grecia rappresenta in quegli anni un possibile modello di attuazione. Piazza Fontana si spiega anche da quello. Portogallo e Spagna di fatto offriranno un appoggio logistico al terrorismo nero, un appoggio logistico nel senso che spesso si rifugieranno soprattutto in Spagna, con la Grecia, si instaura invece un rapporto di scambio militare, di istruzione, dove l'estremismo nero non manca di fare frequenti viaggi in terra ellenica. Proviamo ora a cercare di periodizzare il fenomeno. Io sto procedendo per passi successivi a un tentativo di definizione, di modo che con la definizione che costruiamo ci andiamo poi a confrontare con alcune delle opere che elencheremo. Detto che i presupposti teorici ci sono già all'inizio degli anni 60 e sono noti nei circoli che contano, cioè in coloro che poi attueranno la strategia della tensione, propendo per l'attuazione 1969-1974. C'è chi antepone l'inizio e addirittura chi pospone la fine, arrivando addirittura alla strage del 2 agosto o alla strage del treno direttissimo di Natale del 1984. Secondo me quel contorno, quel contesto, alla luce degli elementi che vi ho dato, è invece racchiuso in questo quinquennio. Chi sono i soggetti che attuano la strategia della tensione? Personalità istituzionali, alte cariche dello Stato, manovalanza di estrema destra. Ciò chiaramente è provato dalle condanne, dai coinvolgimenti che queste figure hanno avuto. Quando si rimanda a giudizio il capo dei servizi segreti, facciamo anche un nome, possiamo fare il nome di Vito Micelli fra gli altri, è chiaro che chi gestisce l'aspetto politico conosce quello che fa il servizio segreto. Non abbiamo chiaramente la prova diretta, ma queste manovre operate dal servizio segreto non avvengono nell'ignoranza di chi gestisce il potere politico. Questo deve essere un fatto chiaro. Allora dovremmo, se volessimo usare l'ipotesi contraria, dovremmo dire che in Italia hanno comandato i militari. Falso. È chiaro che la linea della strategia della tensione gioca in maniera molto forte, attraverso l'informazione, sulla psicologia, cioè tende a far cambiare opinione alle persone. Così come in guerra i bombardamenti sui civili tendevano a distruggere il morale di chi veniva colpito, anche qua avviene un meccanismo in parte simile. Vi ricordo, per fare un esempio storico precedente, che i bombardamenti che colpirono l'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale ebbero l'effetto di creare un forte sentimento di risentimento nei confronti di Mussolini e del regime fascista. Quindi, purtroppo, le bombe hanno un potere tecnicamente deflagrante, ma che diventa deflagrante anche nella psiche. Qual è l'obiettivo della strategia della tensione? Certamente quello di spostare l'asse politico verso destra, non necessariamente di creare un governo neofascista o militare, spostare l'asse verso destra, tenere quindi blindare un equilibrio politico, ma uno degli aspetti che la strategia della tensione cercava era quello di indurre le forze di sinistra, intese nel senso più ampio, a una reazione violenta per poterle poi soffocare con la repressione. E allora andiamo più nel dettaglio a vedere come la questione dei mezzi di informazione è stata affrontata nella bibliografia. Non è un caso che nel primo importante testo che esce nell'estate del 1970, La strage di Stato, sul quale torneremo più volte, il ruolo della stampa è perfettamente colto nella sua funzione. Troviamo un elenco di testate che diffondono, anche attraverso una titolazione scandalistica e forte, diffondono un senso di paura. Il rapporto tra la diffusione della paura e i mezzi di informazione di massa chiaramente non è univoco. Ci sono giornali e giornalisti che sanno che devono informare trasmettendo paura, o ci sono quelli meno edotti ma comunque più istintivi che informano così perché li guida, diciamo, una sorta di intuito o di spinta. Quindi una parte sono coscienti, una parte giocano sulla reazione istintiva. Uno dei primi studiosi, Rosario Minna, che si cimenta col tema dei terrorismi, un testo interessante del 1984, Rosario Minna comunque non è uno storico, è un magistrato, chiaramente individua perfettamente il gioco, terrore cieco, per cercare una forza superiore e protettiva che domini questo terrore cieco. E siamo nel quadro dell'informazione a quello che ho definito, in un testo che ho curato, I neri e i rossi, edito lo scorso anno, allo schema narrativo canonico, che è perfettamente rappresentato nella strage di Piazza Fontana, cioè l'attribuzione della responsabilità ai rossi di azioni eseguite dai neri. Ma questa attribuzione di responsabilità non passa attraverso la magistratura, passa attraverso i media. Un aspetto interessante di questo schema narrativo canonico è che non è inaugurato con Piazza Fontana, ma nel corso del 1969 è già in atto. Prendiamo ad esempio un evento politicamente importante. Siamo nell'estate del 1969, abbiamo una nuova scissione del Partito Socialista. Il Giornale d'Italia, che appartiene alla catena del gruppo Monti, nell'indicare la scissione socialista e nell'elogiare il coraggio del Partito Socialdemocratico o dei socialdemocratici che si staccano dai socialisti, dice: sventato un complotto contro lo Stato. Quindi accusa i socialisti di un colpo di Stato. Una cosa abnorme per quello che in realtà fu il fenomeno, ma è un tipo di informazione scandalistica molto forte, teso a disseminare la paura. Quindi se un evento che apparentemente rimarrebbe nei confini del dibattito ideologico, delle scelte strategiche di un partito, in realtà viene sovradimensionato, è chiaro che questo semina panico. Così come le tante bombe, circa una ogni tre giorni, che scoppiano nel 1969, viene molto spesso letta come un'azione di perturbamento, un'azione che però ha mandati che non si conoscono, o laddove questi mandati risulterebbero noti sono anarchici. Quindi in tutto il 1969 c'è questo schema legato alla bomba e alla paternità che probabilmente viene da sinistra. La sinistra rappresenta una sinistra indistinta, che quindi include anche i socialisti, rappresenta una pericolosa minaccia rivoluzionaria. Quando arriviamo ai fatti del 12 dicembre 1969, lo schema è già pronto, era già stato attuato, viene semplicemente esteso. Con un'altra particolarità, con il ruolo delle istituzioni come informatrici, come detentrici della verità. E anche qua possiamo fare un esempio leggermente precedente. Milano, novembre 1969, manifestazione per il diritto alla casa. Due camionette della polizia si scontrano e tragicamente muore l'agente Antonio Annarumma. E la polizia, finanche il Presidente della Repubblica, daranno la responsabilità ai manifestanti. È un falso. Ricordiamo, il Presidente della Repubblica, lo stesso giorno, il giorno dopo, parla di assassini in riferimento ai manifestanti, cioè il capo della magistratura. Quindi la fonte istituzionale è fortissima che dà questo tipo di informazione. Quindi in un giornalismo che nella sua maggioranza è sempre camaleontico, cioè sempre vicino al potere, lo accarezza, è chiaro che queste sono tutte fonti di informazioni molto forti che legittimano queste linee di posizione. E quando arriva a Piazza Fontana, ricorderete o ne avrete sentito dire del famoso episodio di Bruno Vespa, che tre giorni dopo, non appena arriva la notizia dalla questura che Valpreda è stato incriminato dalla magistratura, lui calca la mano e da incriminato è il colpevole. Da qui parte, diciamo, tutta la narrazione di Valpreda mostro, che è comunque ben ricordata e ben inquadrata in uno dei migliori testi sul tema, che è quello di Guido Crainz, intitolato Il paese mancato. Testo per diversi aspetti schematico, ma fondamentalmente chiaro e corretto nell'interpretazione. Attenzione, perché noi abbiamo molti testi sui quali torneremo e torneremo a parlare della strage di Stato, ma abbiamo anche una serie di testi che invece sostengono la versione delle autorità. Nel 1973 esce il testo di Mario Tedeschi, che rappresenta l'ala perbenista del Movimento Sociale Italiano, è comunque un senatore e una figura di rilievo del direttivo dell'MSI, scrive un libro, anche venduto, di discreto successo, La strage contro lo Stato, nel quale, ancora nel 1973, sostiene la responsabilità degli anarchici e legge Piazza Fontana come il culmine di una azione iniziata con il 68, seguita dagli scioperi, e quindi un passo segue l'altro, 68, scioperi, violenza, attentato. Questo, diciamo, è il difensore di quello che ho definito lo schema narrativo canonico. Mario Tedeschi, fra l'altro, giova ricordarlo, è direttore del Borghese, un settimanale comunque importante per l'area conservatrice e di destra in Italia. Un classico settimanale di opinione per il centrodestra, sarebbe il caso in questo caso invece di parlare semplicemente di destra. Allora, vediamo perché i giornalisti scrivono più degli storici. Se noi guardiamo l'insieme della produzione, vediamo che per quantità, alle volte anche per qualità, i giornalisti danno un contributo migliore rispetto a quelli degli storici. Intanto, i giornalisti scrivono per primi. Scrivono per primi perché è parte del loro mestiere, della loro attività. Sono legati a una necessità di cronaca. Quindi quando un giornalista scrive un articolo, molto spesso, se è un bravo giornalista, ha una documentazione decisamente superiore allo spazio dell'articolo che scrive. Quindi accumula informazione e magari realizza anche un libro. Vi ricordo che nel volume La strage di Stato, Marco Ligini è uno dei giornalisti di punta che contribuisce alla stesura del testo, non sarà l'unico. Poi chiaramente i giornalisti sono più bravi degli storici a carpire le notizie, hanno un'abilità insita nel loro mestiere che lo storico non ha. Quindi la pulsione investigatrice è più tipica del giornalista che non dello storico, non credo moltissimo lo storico investigatore. Ci sono esempi passati di storici che si cimentano con la storia del presente. E qua torniamo a citare, l'avevamo fatto prima a proposito del re nudo, il grande storico Mark Bloch, considerato da diversi storici internazionali come il miglior storico del Novecento, che lui da medievista scrisse un testo, La strana disfatta, nel 1942, l'osservazione diretta del crollo francese in guerra, un'opera straordinaria scritta con pochissime fonti ma con una lungimiranza notevole, con le analisi dello storico, un testo davvero coraggioso che però riuscì a individuare perfettamente la mentalità serpeggiante in quel momento. Gli storici italiani, se ci vogliamo limitare a questo contesto, non sono riusciti ad emulare questa grande prova di Mark Bloch nel caso della strategia della tensione. Mi piace invece ricordare il testo di Carlo Ginzburg, che però esce alla fine degli anni Ottanta, intitolato Il giudice e lo storico, dove con la sua consumata capacità di storico mette in evidenza le falle dell'accusa nei confronti di Sofri. È forse uno dei pochissimi casi, mi pare l'unico, nel quale uno storico entra direttamente nel dibattito giuridico o negli aspetti, diciamo, legati alla ricostruzione degli eventi quasi in tempo reale, anche se chiaramente Ginzburg scrive negli anni Ottanta, però diciamo è un intervento che ha una sua originalità. Non ci sono altri casi fra gli storici su questo tipo di contributo. E veniamo al testo La strage di Stato. La strage di Stato ovviamente ha un ruolo fondamentale, contribuisce a incrinare lo schema narrativo canonico, mostra le falsità che sono state create, ma soprattutto anticipa il lavoro della magistratura, ma lo anticipa da vari punti di vista. Non soltanto si dice che la strage è nera, si dice anche che c'è un coinvolgimento dei servizi segreti. È chiaro che il volume non va preso per oro colato, ci sono degli errori, diversi errori, ma le intuizioni sono forti, le linee di indirizzo sono corrette, ed è anche un testo di grandissimo coraggio civile. Fra gli altri estensori del testo voglio ricordare Edoardo Di Giovanni, che era un avvocato e che poteva in realtà anche accedere a tipi di informazioni più riservate legate agli ambienti della magistratura. Questo è un testo che è ricchissimo di informazioni, ai quali ad esempio attingono, senza citarlo, ottimi testi come quello di Franco Ferraresi, il suo Minacce alla democrazia, uscito negli anni 90, utilizza alle volte, appunto, senza citare, questo testo. Quindi funziona anche come base per il lavoro storiografico. A questo testo dobbiamo la diffusione di massa del termine strategia della tensione, anche se probabilmente Aldo Giannulli vi ha ricordato che il termine viene dalla Gran Bretagna e da Leslie Finner dell'Observer. Questo testo ha un successo enorme, 300.000 copie in 10 anni, e come vi ho detto ha anche la funzione non piccola, non insignificante, di mettere in discussione la verità ufficiale. Probabilmente dopo questa esperienza, alla luce di tutto il dibattito che il testo crea e alla luce degli altri lavori giornalistici, la versione ufficiale delle autorità non sarà più presa come verità sicura. Quindi la versione della questura diventerà una pista di indagine, una possibilità molto spesso sempre messa in discussione anche da testate non militanti, non strettamente di sinistra. La virata significativa, ad esempio, è quella del Corriere della Sera, che fu tra i cannibalizzatori di Valpreda, ma che poi all'inizio degli anni 70 cambiò direzione e arrivò Piero Ottone, il quale cominciò a essere straordinariamente prudente su queste versioni e anzi guardò molto di più a coloro che mettevano in dubbio le verità ufficiali anziché suffragarle. Un altro elemento che dobbiamo considerare legato al successo di questi testi giornalistici, ce ne sono altri, è il fatto che questi testi vengono ristampati a distanza di anni. La strage di Stato è tuttora ristampato. Un altro importante contributo venne offerto dal giornalista dell'Avanti, Marco Sassano, che entrò nella redazione voluto da Gaetano Arfè nel 1969, che scrisse una serie di libri quasi subito dopo i fatti, tra il 71 e il 72, intitolato Suicidio di Stato, un testo su Pinelli, e La politica della strage, un testo che è stato ristampato in questi giorni da Marsiglio. Va ricordato anche la capacità della stampa di sinistra di riuscire a mobilitare su questi temi l'opinione pubblica. Lo fa in una maniera forte, c'è un notevole scuotimento. Ricordo il testo di Camilla Cederna, Pinelli, Una finestra sulla strage, che però ebbe una capacità mobilitante, ma non era esatto, nel senso, perché postulava una responsabilità di Luigi Calabresi che non è mai stata dimostrata. Ricordo che quando Pinelli cadde è appurato che Calabresi non era in quella stanza. Però accanto ai testi i giornali riuscirono a lanciare delle fortissime campagne di stampa e degli appelli. Gli appelli degli intellettuali furono un altro elemento mobilitante per scuotere la coscienza civile. E l'Espresso fece una campagna molto dura contro Calabresi. L'Espresso, nel panorama giornalistico italiano, viene definito come un settimanale radicale socialista, quindi appartenente alla sinistra, ma non alla sinistra più estrema, non è Lotta Continua. Un altro testo importante esce nell'aprile 1970, anticipa di un paio di mesi l'uscita del testo La strage di Stato. Si intitola Le bombe di Milano, pubblicato dalla casa editrice Guanda nel 1970, e ha come particolarità quella di raccogliere i contributi di tutta una serie di giornalisti, anche questi non di estrema sinistra, ma sicuramente democratici, che guardano verso la sinistra, anche quella riformista, che sin dal primo momento non avevano creduto alla tesi prefabbricata dalle istituzioni. Giorgio Bocca e Camilla Cederna, Giorgio Bocca sul Giorno fu uno dei primissimi, proprio all'indomani della strage, a dire che si trattava di una provocazione. Il Giorno e Paese Sera presero una posizione decisamente più dura subito contro la strage che non l'Unità, che rimase più in una posizione defilata di attesa. Qua c'è l'elenco di una serie di giornalisti che hanno scritto importanti contributi dopo questo testo. Fra gli altri, un testo che avete lì anche nel banchetto, Processo al processo, che smonta il castello accusatorio nei confronti di Valpreda, ma voglio ricordare anche i testi importanti di indagine di un giornalista, scrittore come Corrado Staiano, sono dei testi anche straordinariamente eleganti dal punto di vista letterario, davvero piacevoli da leggere, e sono tre: Il sovversivo sulla morte di Francesco Serantini a Pisa, La forza della democrazia, che è un testo tratto da un programma televisivo del 1977, un testo potremmo dire di antifascismo militante. Curioso che nel 1977 un lavoro di questo tipo sia trasmesso dalla televisione di Stato, quindi un segnale di come poi i tempi riusciranno a cambiare, e un altro testo che non è oggetto di quello che trattiamo oggi, ma che ve lo segnalo come un eccellente testo sul terrorismo rosso, ed è L'Italia nichilista, ed è un ritratto del figlio di Carlo Donat-Cattin, Marco Donat-Cattin, che era in prima linea, e del suo compagno Roberto Sandalo. Quindi, indubbiamente, il miglior giornalismo è anticipatore della verità. E il miglior giornalismo spezza anche quelli che sono spesso gli schemi prestabiliti anche delle testate di sinistra o di estrema sinistra. Non è che a sinistra ci sia necessariamente la verità, mentre nella stampa o nel settore conservatore si dicano solo delle bugie. Non è esattamente questo. Ci sono degli appiattimenti fortissimi anche a sinistra. Eppure, però, la capacità del nostro giornalismo è anche quello di produrre dei testi altrettanto coraggiosi, sia nei confronti della parte avversa, sia nei confronti della propria parte. Una delle pieghe più forti che ad esempio la stampa assunse in occasione e in conseguenza della strage di Piazza della Loggia a Brescia era quella di indicare in Fumagalli, un'altra delle persone che ruotano dentro questa vicenda, un fascista, fu un falso. Fumagalli era un partigiano bianco e Achille Lega e Giorgio Santerini, che Aldo Giannulli definisce nel suo libro Bombe d'inchiostro uno dei migliori prodotti della controinformazione democratica, questo testo. Così come il testo di Gian Pietro Testa, La strage di Peteano, è quello che enuncia 6 anni prima la responsabilità dell'estrema destra in questo eccidio. Vi ricordo che vengono uccisi il 31 maggio 1972 a Peteano, località in provincia di Gorizia, 5 carabinieri in seguito a un'esplosione di una bomba all'interno della 500. Sarà Vincenzo Vinciguerra, di Ordine Nuovo, ad assumersi la responsabilità di questo attentato, ma per molto tempo, volutamente, le indagini e l'informazione non dissero che era una strage dei neri. Si orientarono, non potendo più ripetere lo schema di Piazza Fontana, su una pista legata alla delinquenza comune, cioè gli apparati protessero gli esecutori. Vinciguerra, di cui avete i testi anche nel tavolo, con Ergastolo per la libertà, rivendica la sua azione dicendo: questa è stata un'azione contro lo Stato, e accusava gli uomini, i suoi compagni di Ordine Nuovo, sarebbe il caso più di parlare di camerati che di compagni, dicendo che Ordine Nuovo collaborava con lo Stato, e quella strage invece è un messaggio allo Stato dicendo: guarda, noi invece siamo in guerra. Gian Pietro Testa si avvicina notevolmente alla verità. È un testo, anche questo, che recentemente è stato pubblicato e che vi segnalo anche per la piacevolezza della lettura. Questa è una considerazione che mi viene di fare. banale per chi si occupa di comunicazione di massa, ma è così. La verità non sta nel raccontare fedelmente i fatti, ma nel saperla rappresentare. È un po' triste per chi crede alla verità, ma ahi noi è reale. Per ripetere e arricchire alcune considerazioni che abbiamo fatto, diciamo che queste opere coeve, insieme all'urto che dà la stampa, spezza lo schema narrativo canonico, che non scompare, ma progressivamente rimane confinato alle testate fortemente conservatrici, quando non filofasciste. Un giornale come il Corriere della Sera ne è un chiaro esempio di come risenta del clima, di come risenta di queste battaglie civili. Qua, attenzione, la rottura dello schema narrativo canonico spezza però anche l'intento degli ingegneri della strategia della tensione, perché la strategia della tensione, se funziona almeno fino alle elezioni del 72, dopo si ritorce contro i suoi autori e diventa un'arma nelle mani della sinistra. Vi segnalo un testo che non è propriamente storico, ma che è interessante per capire come è funzionata l'informazione anche in occasione di Piazza Fontana, ed è Pio Baldelli, Informazione e Controinformazione. Pio Baldelli fu anche direttore responsabile di Lotta Continua, lui ironicamente diceva direttore irresponsabile di Lotta Continua, e il testo è stato recentemente ristampato dalle edizioni Indi nel 2006. Per chi è proprio interessato a capire la teoria tecnica della comunicazione di massa, Pio Baldelli è un maestro, alcuni addirittura lo associano ai grandissimi, a Eco, a Marshall McLuhan. Forse esagerano un po', ma indubbiamente è un testo da vedere, un testo intelligente. È interessante il giudizio che Aldo Moro diede sulla strategia della tensione. Un giudizio, premettiamolo perché è doveroso farlo, che Aldo Moro dà nel momento in cui è prigioniero, quindi c'è tutta una grande teoria di storici, di politici che dicono che Aldo Moro non è attendibile quando parla. Esiste anche un libro che esula da questo argomento, ma che vi segnalo, il libro di Marco Clementi, La pazzia di Aldo Moro, pubblicato da Odrade, che è ripubblicato, mi pare successivamente anche da Rizzoli. Come dire, non prendete in considerazione nessuna parola di Aldo Moro, né quando chiede la libertà, né a maggior ragione quando fa assunzioni, affermazioni più importanti. Però è interessante quello che Aldo Moro dice nel 78, quando la strategia della tensione è finita, quando non esiste più un pericolo diretto di rivolgimento autoritario o fortemente conservatore. Secondo Aldo Moro, a far fallire la strategia della tensione è la vigilanza delle masse popolari, che detto così sembra più legato a un'operazione a grandi manifestazioni, ma certamente le manifestazioni contribuirono, ma a fornire le informazioni a chi poi andava in piazza a manifestare era la stampa, era il grande giornalismo, erano questi tipi di testi. È vero che la vigilanza popolare fu molto forte, e che certo in ultima analisi fu quella che contribuì a far saltare il meccanismo. Vi segnalo, per chi è interessato alle vicende di Aldo Moro, un testo mai ricordato ma secondo me molto interessante, che è proprio il memoriale di Aldo Moro, quello recuperato in via Monte Nevoso, in edizione Critica, curato da Biscione, che ha scritto anche un testo per Editori Riuniti, Il delitto Moro. Questo invece è il testo, il memoriale di Aldo Moro, uscito nel 1993. Veniamo ora alle opere su Piazza Fontana. Anche qua, nel corso del tempo, noi abbiamo una sostanziale anticipazione, una sostanziale vivacità dei giornalisti. Se noi ci spostiamo negli anni 90, osserviamo che il punto di riferimento investigativo da tenere presente, che è poi l'approdo ultimo della giustizia, è legato alle conclusioni dell'indagine dei giudici Salvini e Lombardi avviate nel 1993, e ricordo, indagini che hanno avuto come importante consulente anche lo storico e nostro amico Aldo Giannulli. Un testo, ad esempio, che ha la capacità di anticipare una parte di quelle conclusioni e che vi segnalo è il testo di Giorgio Boatti intitolato Piazza Fontana, il giorno dell'innocenza perduta. Un testo, anche questo, è stato veramente più volte ristampato fino agli ultimi tempi. È interessante considerare il sottotitolo di questo testo, Il giorno dell'innocenza perduta. Aspetto che viene sottolineato nel testo di Guido Crainz, Il paese mancato, che vi ho enunciato prima. E l'idea dell'innocenza perduta è un concetto ripetuto da più soggetti del tempo, come a dire che all'interno del movimento studentesco, all'interno di una fascia extraparlamentare, da quel giorno partì l'idea che ci si doveva contrapporre con la forza, con la violenza, a questi tipi di provocazioni che arrivavano dalle istituzioni e dall'estrema destra. Quindi l'idea dell'innocenza perduta evoca una risposta del terrorismo rosso, ed è infatti la tesi che due ottimi sociologi come Catanzaro e Manconi riprendono nel testo del 1995, Storie di lotta armata. Fra gli altri testi sulla strage di Piazza Fontana, editi nel 90 e di buon livello, vi ricordo quello di Fabrizio Calvi e Frédéric Laurent, Piazza Fontana, la verità di una strage, con anche la ricostruzione del contesto internazionale, con il riferimento alla Grecia di cui vi accennavo prima, e un altro testo altrettanto interessante, quello di Dianese e Bettin, anche qua parliamo sempre di giornalisti, intitolato La strage, dove è ricostruito l'ambiente di Ordine Nuovo e le sue strategie operative. Ora veniamo invece a legare il termine di strategia della tensione con altre questioni che sono correlate da vicino. Come vedete dalla domanda che ci poniamo se i tentativi di golpe sono parte della strategia della tensione. Bene, se noi assumiamo che la strategia della tensione ha una componente importante nell'informazione, i tentativi di golpe non sono strettamente legati alla strategia della tensione, appartengono a quel contesto ma non sono strettamente legati alla strategia della tensione. Perché? Perché i tentativi di golpe non presuppongono l'informazione. In realtà, da quello che ho potuto capire sinora, il tentativo di golpe è una minaccia che arriva diretta alla classe dirigente, non all'opinione pubblica. E poi anche chiaro che in una società democratica i segreti prima o poi vengono scoperti. E non è un caso che le forze politiche cercarono di essere straordinariamente prudenti nel diffondere la notizia di un colpo di Stato. queste considerazioni sono state approfondite, come le considerazioni sulla strage di Peteano, nel libro anche che vi avevo annunciato prima, I neri e i rossi. Qual era il problema di diffondere la notizia del golpe? Era anche da parte delle sinistre la paura che la diffusione della notizia provocasse un eccesso di mobilitazione nelle sezioni, nelle strade, e che quindi prestasse il fianco al desiderio di reazione. E quindi il golpe borghese, più di tutti, è al centro di un dilemma informativo. Il golpe borghese, per riassumervelo in un istante, è un tentativo ordito da Borghese, ma potremmo dire meglio eseguito da Borghese su commissione di altri, ed è l'unico tentativo di colpo di Stato che materialmente viene messo in atto. I congiurati arrivano addirittura ad occupare l'armeria del Viminale. Poi il colpo di Stato si ferma, Borghese riceve una telefonata dove gli si dice che deve essere interrotto il tentativo fino a nuovo ordine, non ci sarà un nuovo ordine. Le forze politiche, già l'8 dicembre 1970, sanno già tutto, sanno di questo tentativo, ma la notizia esce soltanto nel marzo del 1971. E la stampa di sinistra si guarderà bene da marcare la mano su questo tentativo di colpo di Stato. In realtà non parlò di colpo di Stato tentato, ma parlò di complotto, quindi diciamo depotenziò la minaccia, fino poi ad arrivare alla negazione totale del colpo di Stato, tant'è che questo golpe è ormai riconosciuto come un golpe da burletta, quando golpe non fu. Ma golpe da burletta in realtà è diciamo il lavoro di abbassamento, di sminuimento di questo tentativo, che operò la stessa magistratura, che riuscì ad assolvere anche i rei confessi. Una parte anche di queste vicende è tratteggiata nel primo importante libro realizzato da uno storico, ed è il libro del più volte citato Aldo Giannulli insieme a un giornalista, Cucchiarelli, intitolato Lo Stato Parallelo. Quel libro mise in relazione tutti i documenti fino a quel momento affiorati e li inserì all'interno di un'analisi storiografica. Altro aspetto, relazione da tenere presente: la violenza minuta, quindi diciamo i pestaggi, gli assalti alle sezioni, anche le uccisioni, sono in rapporto con la strategia della tensione? La mia idea è che siano in rapporto, benché questo non sia chiaramente